si dice? Good afternoon. Sì. Good afternoon. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. C'è Quaresma dall'altra parte, invece va a giocare Abubakar. Abubakar, attenzione, c'è un tocco col braccio, calcio di rigore. Quaresma, parte lui. Il tempo per reagire. Hamsik, Zanatino per lui, prova la grappata. Rete, eccolo il capitano. Rete, Hamsik, il colpo del fuori classe. La partita è stata in mano nostra ampiamente, abbiamo concesso pochissimo, abbiamo creato e purtroppo in questo momento stiamo concretizzando poco di quello che creiamo, però l'importante era ritrovare distanze, pressione alta, fase difensiva di squadra e tutto. Oggi la squadra si è divertita in campo, ha giocato un bellissimo calcio e praticamente c'è stata solamente una squadra in campo e abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Sicuramente abbiamo meritato di più, però il pareggio non ci sta neanche male. Il pareggio non ci sta neanche male, un buon Napoli ieri sera sul prato del Beşiktaş, l'importante era non perdere, il Napoli ha raccolto questo 1-1, un Napoli che sta crescendo, vista anche la gara con la Juventus pure persa, rimane primo nel suo gruppo. Antonio Giordano è appena tornato dal Bosforo, ciao Antonio. Buongiorno ragazzi, mi emozionate. Il Corriere dello Sport. Pierluigi Pardo invece è appena tornato da Manchester, dove no non è ancora, devo ancora partire. Non è ancora tornato da me, è ancora a Manchester. Ancora a Manchester, dove ha raccontato del calcio dei tempi moderni. Allora, È certo. Dove ha raccontato la rivincita di Guardiola sul Barcellona, questo 3-1. L'ultimo gol non lo contiamo perché assist di mano, ma vabbè. Ragazzi, però prima vorrei, visto che ci sono, poi le ascolteremo le parole di Leonardo che a Sky ha detto no, io allenatore dell'Inter non sono l'uomo giusto, una battuta sul caso che ha aperto la settimana, e cioè ciao De Boer, e chissà chi arriva perché ancora non è chiaro. Pardo. Beh, se arriva Hiddink arriva il massimo, almeno fino a qualche anno fa, il miglior traghettatore possibile, l'allenatore da risultati immediati subito. È vero che è un andese come De Boer, ma è il contrario di De Boer. Certo, De Boer è un giovane che si sta facendo. Hiddink è un uomo di mondo. È un uomo di mondo che ha allenato ovunque, è allenato in Corea, in noi, ha allenato in Spagna, parla benissimo 27 lingue diverse, è molto pragmatico, non è un uomo di dogmi, è un uomo di anche un po' minestraro, no? Certo, certo. Comunque è uno che trova sempre l'impasto giusto e quindi secondo me Hiddink sarebbe una grande chiamata per quello che serve all'Inter in questo momento. E detto questo, le cose ormai gli ascoltatori si saranno stancati di sentirmene dire, perché io dico da un mese, secondo me non prendi un allenatore così naif, così di rottura con quello che è il calcio italiano ad agosto per mandarlo via fino a ottobre. Questo secondo è evidente. Me se lo prendi gli dai fiducia, almeno fino a Natale. Bilancio sicuramente negativo, certamente anche le sue colpe, non è che diventa una vittima, è andato male sicuramente, però se fai una scelta così di rottura, così radicale, devi difenderla all'Inter, no? Io la interpreto anche come insomma una sconfitta di chi lo ha provato a difenderlo come Ausilio. Poi parleremo anche di ciò che accade all'interno di quel guazzabuglio che è la società Inter. Antonio Giordano, sei d'accordo con Pardo? Hiddink potrebbe essere il profilo ideale e anche un nome spendibile sul mercato internazionale, perché è conosciuto in tutto il mondo, mentre Pioli in Cina non credo sia molto conosciuto. O pensi che il normalizzatore o il cincinnato Pioli possa rimettere ordine più in fretta forse in questa Inter? Credo che sia difficile intervenire in questa Inter per tutto quello che ha detto Pardo e per tutto quello che penso si dica ognuno di noi che guarda il calcio. L'Inter è la più grande opera di improvvisazione del calcio italiano contemporaneo. Sì. E lo testimonia tutto quello che sta accadendo negli ultimi tempi, negli ultimi anni e soprattutto da quando sono arrivato in cinese quanto riguarda Hilding, mi fregate, è il mio allenatore preferito, dopo altri che non vi citerò, ma te ne frega che vecchio. E 10 anni fa credo sia stato un allenatore straordinario. Mm-hmm. Poi è chiaro che passa il tempo per tutti quanti, anche per me, per te, per parte. No, adesso si è specializzato in, però, in traghettamenti, per l'appunto. Però sì, sì, ora credo che possa rappresentare il profilo ideale per rientrare in questa Hilding. Mm. Quindi 2-0 per Hilding secondo Giordano e Pardo. Antonio, dimmi invece del Napoli di ieri sera. Una buona gara, dicevo prima. Forse bella. Poteva raccogliere qualcosa di più. Deve come vincere a come a Torino, deve vincere due partite per arrivare certamente primo. 4 punti bastano per passare al secondo turno. Dinamo Kiev in casa e Benfica in trasferta le prossime due avversarie. Devo dire che non mi aspettavo questo Napoli, anche se Torino aveva già fatto bene, ha pareggiato una partita che avrebbe dovuto vincere e che invece rischiava clamorosamente di perdere. La testimonianza che manca qualcosa in questo Napoli, una sola persona, Gabbiadini, che ormai è il tempo necessario per dare le risposte che tutti si attendono. In 2 mesi deve spiegare se è da Napoli o se non lo è. Mm. Poi verrà il mercato e a quel punto non ci sarà più nulla da fare. È un peccato perché ha il talento, ma non riesce ad entrare nella squadra. Non credo sia una questione di empatia, penso sia proprio una questione di attitudine e di difficoltà a capire certe cose che pure sarebbero semplicissime, però non tutti quanti fanno il centravanti come li vogliamo noi. Sì, ecco. Sì, certo, Pierluigi, però anche una questione di ruolo. Gabbiadini in quel ruolo, non voglio dire che sia improvvisato, perché a tratti lo ha fatto molto bene anche l'anno scorso. È quello che piace a lui. Piacere o non piacere, però forse non ha le caratteristiche. Lo so. Non ha le caratteristiche per giocare con Sarri, perché Sarri gioca 4-3-3, lui non è né una prima punta né un esterno del tridente, quindi questo sicuramente non lo aiuta, però io credo che il problema sia soprattutto un problema di attitudine, sono d'accordo con Antonio, un problema di personalità, è un problema di momento, sicuramente non ha un carattere di ferro, sicuramente vive una fase un po' di depressione, depressione è una parola grossa, quindi depressione sportiva con tutte le virgolette del mondo, no? Di depressione calcistica, nel senso che sta faticando parecchio, certamente la partita d'andata con la sua esclusione non gli aveva fatto bene, lui avverte tranquillamente che Sarri non è che lo ami tantissimo, però poi adesso spetta a lui, cioè arriva a un certo punto della vita che se hai delle caratteristiche di un certo tipo, se hai una classe di un certo tipo, lo devi dimostrare. Sì. E lo dimostri non solo col talento astratto, ma con la personalità nell'uscire dai momenti difficili, e deve farlo. Eh sì, anche perché è un gran peccato che il Napoli abbia buttato via la partita dell'andata. Anche perché il destino gli ha costruito questa chance a cui lui aspirava. Vi prego di rimanere collegati, dopo il traffico vi faccio sentire una cosa, la commentiamo insieme. Tutti convocati. Qui è altro che ciupiti di Bobovia. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Convocati. Dentro di me dicevo, se la stessa partita la giocasse la Juventus, oggi sarebbe, in questo momento saremmo 4-0. Ma la differenza cosa la fa? Questa determinazione che i giocatori della Juventus hanno, questa personalità che hanno e anche questa grande qualità. Qui abbiamo nel Napoli tanti ragazzi che hanno giocato non ad livelli altissimi. Questo il commento di Arrigo Sacchi ieri sera, commentando per l'appunto su Mediaset la gara della Juventus. Cosa ne pensate, Pardo e Antonio Giordano? Ha ragione. 4-0. Ha ragione, la differenza principale della Juve nei confronti del Napoli rispetto anche della Roma è da un lato, secondo me, una qualità più diffusa, cioè meno punti deboli, meno problemi. Meno aree, diciamo, di miglioramento della squadra. Sì. E dall'altra questa cattiveria, questo cinismo che secondo me è decisivo, insomma. Eppure, allora, pareggiato con l'Empoli, Per tutti la Juventus gioca, cioè per tutti, per gli oltranzisti, per i contiani ad oltranza, questa Juventus a Cipicchia gioca male. Ma questo è un tema, scusate, che abbiamo affrontato lunedì lungamente e che certo, per ora anche supererei, poi magari sai che male. Tanto il pensiero non lo cambiano, passa il turno giocando male con il Lione e domani ricominciano Ma la bellezza su questo tema qui è una distrazione, ci porta fuori strada. Parlare di spettacolo ci porta fuori strada in questo specifico. Qui si parla dell'efficacia, e l'efficacia del Napoli come quella della Roma, le metto insieme perché sono le due squadre veramente migliori dopo la Juve negli ultimi anni, ma quello che manca a queste due squadre è appunto un po' di cattiveria, un po' di concentrazione in più in certi momenti, qualche errore di troppo che c'è e che invece la Juve non commette, e la partita del Napoli di ieri lo dimostra, ma lo dimostra ancora di più la partita d'andata. Cioè, la cosa incredibile è che il Napoli ha fatto un punto col Beşiktaş, e fra l'altro insomma questo complica secondo me non poco il discorso qualificazione, purtroppo. Ha fatto un punto col Beşiktaş e dimostrando di essere più forte il Beşiktaş, credo senza alcun dubbio, nelle due partite, quindi questa è veramente un'assurdità. Su questo non ci sono grandi dubbi. Antonio Giordano, 4-0, fosse stata la Juventus. Sì, ha ragione Sacchi, anche per te. Se allarghiamo il discorso, la Juventus vince tutte certe strane partite, quelle che non ha vinto per esempio la Roma ad Empoli, no, quello che non vince il Napoli in Turchia. La Juventus vince tutte le partite cosiddette sporche, anche quelle pulite, ma dall'alto di una storia, di una forma di cinismo che penetra nel sangue di chiunque poi arriva alla Juventus. Perché ho il sospetto che il Napoli, anche con Higuain, forse non l'avrebbe vinta come è successo l'anno scorso. È una questione non solo di codice genetico, ma di abitudine a giocare certi tipi di partite. E l'abitudine viene nel momento in cui le giochi per anni ed anni. Il Napoli è da 7 anni in Europa e ora sta cominciando a capirlo certe cose. E dentro di sé ha una squadra che sì, è vero, è giovane, ma ha anche tanto talento e anche tanta esperienza che è stata accumulata negli anni. Sì. Grazie Antonio. Grazie ragazzi, ad Antonio Giordano. Ciao, un altro. Antonio, cioè di Gennaro, che questa sera commenterà la partita della Juventus. E chiudiamola questa considerazione su sto 4-0, Antonio di Gennaro. Su questo 4-0 evocato da Sacchi, fosse stata la Juve, quattro pappine e il Beşiktaş andava a casa e si festeggiava il passaggio del turno. Sei d'accordo? Buongiorno a tutti, ciao. Un saluto a Pier. Ma sono d'accordo, sì, anche perché la Juventus 3-0. Tre pareri a zero, sì. Sono d'accordo perché la Juventus è la miglior difesa. È inutile andarci, insomma, girare intorno. La Juventus è una difesa che non ce l'ha nessuno, credo anche a livello europeo. Ed è compensa anche con un attacco importante una difficoltà nel poter gestire un centrocampo che in 2 anni ha perso i giocatori migliori. Quindi adesso con il rientro di Marchisio credo che la squadra possa giocare meglio, anche perché Pjanic deve venire fuori. Pjanic è un giocatore che è stato acquistato in maniera importante per fare, diciamo, anche la differenza, soprattutto nelle partite importanti per il Champions League, ma anche il nostro campionato. Quindi senza nulla togliere a Meminà, Hernanes, Sturaro, altra cosa, con tutto il rispetto, ma sono sicuramente un'altra non cosa. Non l'abbiamo ancora visto Antonio Pjanic, non l'abbiamo ancora visto. Caratterialmente anche era, quando era alla Roma, Zeman non lo faceva giocare, ma questo è una valutazione sua, però anche alla Roma nelle partite importanti dove bisogna tirar fuori qualcosa di diverso, Pjanic manca, quindi a Juventus manca tantissimo in campionato. Non so se stasera troverà un nuovo ruolo, ha giocato come davanti alla difesa, ma l'esperimento è fallito contro l'Inter, ha giocato come mezzala, dove lui è cresciuto perché nel Lione proprio ha iniziato a giocare proprio come interno di centrocampo, adesso come trequartista, se dovesse giocare con il rombo stasera, e lì è una prova importante, anche se poi il Lione si giocherà tutte le sue carte stasera. Questo di sicuro. Pjanic ci manca fondamentalmente tanto, perché poi il livello qualitativo del gioco passa anche sul giocatore di centrocampo. Esattamente, quello che si può imputare alla Juve di questo inizio stagione è appunto la non elevatissima qualità di centrocampo, dovuta appunto a un Pjanic che ancora non è esploso, a Marchisio che comunque è già rientrato e quindi aggiungerà qualcosa di importante a quel centrocampo con quello che sa fare, soprattutto con gli inserimenti. Ma prima di continuare a parlare di Juventus, io vi invito tutti quanti, vi convoco tutti, 800 24 00 24, ovviamente numero verde. Sentiamo un paio di voci relative alla vigilia della Juve. Per quanto riguarda Miglioramento alla Juventus è normale che la Juventus debba migliorare. L'obiettivo della Juventus è quello di arrivare a marzo ed essere competitiva sia in campionato per la volata finale e farsi trovare pronti per la Champions. Però per arrivare a marzo bisogna passare il turno. Al momento il turno non l'abbiamo ancora passato, quindi siccome bisogna fare un passo alla volta, perché non si può pensare di cercare di vincere la Champions se non abbiamo passato ancora il primo turno. Sto tranquillo. Il lavoro sempre aiuterà la squadra, se si può fare gol meglio. Comunque, sempre che gioco è per aiutare al massimo la squadra, qualche volta esce bene, qualche volta esce male. Questo è il calcio. Speriamo quest'anno va meglio che gli altri e possiamo arrivare fino in fondo in questa competizione che è importante per la Juventus. Abbiamo sentito Allegri e Gonzalo Higuaín, che questa sera potrebbe segnare la 100ª rete della sua esperienza italiana, e poi è un'altra sera importante, sempre a proposito di numero 100, per Buffon, che ne compie 100 di partite in Champions League. Anche questi sono due bei temi, Pardo, sono due temi carini. Sì, sì, anche se insomma diciamo che gli appassionati non sono tra gli appassionati di numerologia. Però vabbè, che Higuaín è uno che segna tanto e Buffon è una leggenda, quindi questo 100 non è casuale come gli ml invece del maximum limit per liquid gel and parties ai controlli dell'aeroporto, è un numero che ha un valore simbolicamente molto importante. Detto questo, io penso che appunto sentire parlare di Allegri, Allegri sta crescendo, Allegri cresce negli anni come consapevolezza di sé, come esperienza, come capacità di comunicazione. È un allenatore che sta facendo, che ha incassato qualche colpo in questi anni, perché è un incassatore, è un po' arcelottiano da questo punto di vista. Critiche se ne becca sempre tante, qualche volta anche qualche critica di troppo, per il resto la Juve è una buona squadra. L'altra sera Tiki-Taka Leone ci ha detto una cosa secondo me molto, molto interessante, insomma, si parla con Allegri tutti i giorni, lo sentiamo spessissimo anche a tutti i convocati, cioè che Allegri è consapevole che la squadra non sta giocando bene, non è che Allegri abbia sempre giocato così o non abbia un gioco divertente, anzi, il gioco divertente è uno dei tratti abbastanza caratteristici della gestione Allegri. È un gioco, secondo me, in generale europeo, almeno come quello di Conte, quindi anche lui è capace di regalare spettacolo, l'ha regalato nel passato. In questo momento al centrocampo ha qualche problema, questa è la sostanza. Marchiglio sarà un ritorno importante, semmai la vera domanda della gestione della Juve è capire se questo smantellamento progressivo che c'è stato negli anni, Pirlo, Vidal, Pogba, poi alla fine non possa pesare, no, non la squadra possa davanti, pesare, chiaramente no. Con Higuaín è cresciuta in difesa, più alternative perché Benatia è un titolare aggiunto, è molto più sicura e consapevole di sé. L'unico piccolo asterisco lo mettiamo lì in mezzo al campo, perché in mezzo al campo sicuramente la Juve della finale di Barcellona era un'altra cosa. Sì, asterisco che magari Barcellona potrebbe essere cancellato a gennaio, poi ora vediamo. Però Antonio Di Gennaro, Conte dice che... Conte, scusa. Allegri, ce l'ho più dalla testa. Allegri dice anche, ragazzi, stasera possiamo passare il turno. Non l'abbiamo ancora passato, un gradino alla volta, ma dobbiamo essere in forma a marzo, mica il 2 novembre. Boia de. Diciamo che era, diciamo, ha analizzato Allegri, direi anche dal punto di vista della gestione si è migliorato tantissimo proprio anche della squadra, perché è consapevole che ancora gli manca qualcosina rispetto a, diciamo, è una grande squadra, qualcosina gli manca, quindi va piano piano, sa che deve vincere, poi se gioca bene è tutto di guadagnato, e quindi credo che stasera non ci dovrebbero essere problemi. Sì, tutto rispetto per il Lione, ma se la Juve gioca come io ho commentato il Sassuolo, il Cagliari e la Sampdoria, le tre partite dove vabbè sono ovviamente squadre diverse, anche inferiori rispetto al Lione, però ha fatto mezz'ora veramente da grande Juve, da quella che ovviamente deve tenere i ritmi alti, deve aggredire, deve sfruttare le capacità tecniche dei calciatori, quindi un passo alla volta sì, e sono d'accordo perché a marzo sì, non soltanto della Champions ma i campionati, ma certo, si decidono come si arriva, gli infortunati lì. Poi sai, a gennaio è anche difficile trovare dei giocatori importanti, si parla di gennaio, è proprio, si chiama mercato di riparazione, ma questo è chiaro, si mettono le pezze, però regala un centrocampista alla Juventus, Verratti subito, Verratti subito, con Verratti tutto quanto. Verratti e Berardi, Verratti, Berardi, se prendono tutte e due, perché secondo me Berardi e Verratti sono gli unici veri talenti italiani che abbiamo, veri. E quindi io penso che la Juve a livello, diciamo, per progredire anche dal punto di vista proprio anche dello svecchiamento, insomma, 93-94, secondo me se dovesse prendere questi due calciatori, sia in attacco che già forte, ma Berardi può giocare in diversi ruoli, ma soprattutto Verratti può garantire il futuro in quella zona del campo. Poi certo, ok, va bene anche Witzel, Matuidi, Matic, perché piaceva molto Matic, Allegri, giocatore, diciamo, non a livello tecnico, ma di grande, un po' quando aveva, per esempio, al Milan, l'olandese, aiutatemi, Van Bommel, un giocatore di quelle caratteristiche, no? Diciamo alla Pirlo, però che compensava l'aspetto tecnico e anche quello tattico. Quindi, però, Verratti, un equilibratore. Esatto, Verratti mi sembra proprio il giocatore del futuro per la nostra nazionale, quindi nella Juve lo vedrei, anche perché Marchisio potrebbe giocare anche per la... Certo, sarebbe quello che potrebbe cancellare quell'asterisco cui faceva riferimento Pardo prima. Antonio, grazie, buon lavoro. A voi, grazie, ciao, grazie a tutti. Antonio Di Gennaro. Pierluigi, stai lì, collegato da Manchester. Fatti i controlli. Fatti i controlli, fai controlli mentre noi c'è la borsa, poi torniamo insieme a 800 24 00 24. Tra l'altro mi raggiungo in Geberinazzo, parliamo di Inter, facciamo sentire cosa ha detto poco fa Leonardo a Sky a proposito dell'Inter, tanto il suo nome è già stato cancellato dalla lista. Berinazzo ci racconterà che cos'è l'Inter dal punto di vista societario, cosa succederà nelle prossime ore. Ma è una domanda che riguarda anche il Milan, perché oggi sono comparse sui giornali delle notizie relative al Milan. A dopo. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, il coso rosso, grazie. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Rieccoci! Convocati. Allora, mentre Pardo si è ricollegato dall'aeroporto di Manchester, Marco Berinazzo è invece arrivato dal piano di sopra, dal Sole 24 sì, Ore. Distanza brevissima. Distanza brevissima, ricordiamo le due pagine settimanali. Sabato e domenica, Sport e Business. Sport e Business, non dimenticatelo. Inter, capitolo Inter, ovviamente. Ha parlato a Sky Leonardo, che è stato, tra l'altro, era uno dei papabili suggerito da Moratti, voce sempre ascoltata nell'interismo, magari non tanto da nuova proprietà, di cui tra poco parleremo. C'è sempre molta nebbia a Milano, sul fronte nerazzurro, oltre che su quello rossonero. Leonardo. Non è Moratti chi spinge, io leggo queste cose. Guarda, sinceramente oggi non penso che io sia il profilo ideale, perché penso che io non posso uscire da quello che io sono, no? Non posso uscire, io ho fatto l'allenatore e io ho fatto il manager, io sono questo. Quindi sono un allenatore con un'idea manageriale e sono un manager con un'idea tecnica, quindi io da questo non posso uscire. Quindi sono un allenatore, io lo preferisco come manager, ma questa è forse anche questione di gusti. Allora chi servirebbe secondo Leonardo a questo punto? Forse uno che possa portare l'Inter in questo momento, che dia un po' di stabilità alla squadra, no? Che sia, diciamo, legato alla squadra in questo momento mentre la società si organizza, no? Forse è questo il profilo ideale di una persona che pensi solo a quello, anche se non possiamo neanche chiedere a questa persona di rivoluzionare, di risolvere un problema di un momento all'altro, che sarebbe il terzo allenatore arrivando, ma penso che oggi questo profilo, anche se non so tante cose, no? Quindi chi è dentro sa molto meglio di me. È il profilo di Hidding o quello di Pioli, Pierluigi? Io andrei su Hidding tutta la vita, anche se Pioli è un bravo allenatore. Nessuno, non voglio essere... Cioè, Pioli è un allenatore di grande rendimento, di grande di buon profilo, di buon profilo, quindi non è una brutta scelta. Pioli certamente, cioè, se non trova l'Inter adesso, trova la panchina fra tre mesi o l'anno prossimo. Pioli, insomma, è uno che ha in questo momento un'immagine pulita di uno che ha fatto molto bene alla Lazio, che ha fatto molto bene alla Lazio, che è un attore giovane, preparato, molto serio, molto affidabile, io direi. E, aspetto invece societario, Marco Belinazzo. Allora, disegnami l'Inter, considerando anche, mettendo in questo quadro, in questo schizzo, anche il fatto che a giugno scadono i contratti di Bolingbrock, uomo di Torir, che è in scadenza pure lui, come sappiamo, di Ausilio e di Giovanni Gardini, cioè dell'Anima Italiana. Beh, è chiaro che c'è questa fase di transizione che i cinesi si aspettavano un po' più tranquilla dal punto di vista sportivo per poter mettere radici. È stato inviato un piccolo gruppo di manager cinesi che deve imparare come si gestiscono le aziende calcistiche e soprattutto devono abituarsi a quello che è il calcio italiano, e quindi Suning aveva ritenuto molto opportuno quello di affiancare in questa prima fase l'ossatura della dirigenza nerazzurra che aveva fin qui guidato il club, e tenere anche in sella Eric Thohir. Questa dirigenza è riuscita a fare alcune cose molto positive. Per esempio, poche volte è stato sottolineato il fatto che quando nel 2015 si è trattato di andare a individuare con la UEFA le sanzioni da applicare per il fair play finanziario, a differenza di tutte le altre squadre, in primo luogo la Roma, l'Inter è riuscita a ottenere un piccolo vantaggio, piccolo tra virgolette, cioè quello di non avere obblighi sul 2015, ma di avere l'obbligo meno 30 direttamente sul 2016, mentre per esempio la Roma aveva l'obbligo di fare nel cumulativo di 2015 e 2016 meno 30. Cosa significa questo? Che l'Inter sul 2015 ha scaricato 140 milioni di rosso e si è ritrovata invece con meno 59 quest'anno, che permetterà, con una serie di valutazioni sui costi, i cosiddetti costi virtuosi, di stare molto probabilmente sotto quei parametri. Quindi diciamo, questa dirigenza dava tutto l'affidamento ai cinesi. Il problema è che in questo momento, date le difficoltà sportive, tentano i cinesi di portare avanti quello che è il loro progetto, cioè un progetto di alto profilo internazionale, quindi Hiddink, quindi legato alla nome valorizzazione del brand ovunque, in tutto il mondo, con l'Anima Italiana che vorrebbe molto più pragmaticamente trovare un traghettatore che porti l'Inter il più alto possibile a fine stagione. Sì, nel modo più semplice possibile. Nel modo più semplice possibile. Ma Hiddink è il modo più semplice possibile? Scusate se faccio l'ultra di Hiddink, ma Hiddink è un allenatore, capisco che in Italia non abbiamo mai... quindi sicuramente qualcuno potrà sposare il principio che sia un azzardo o una scommessa, ma Hiddink è esattamente lo traghettatore, proprio è lo specializzato nel fare cose semplici in breve tempo. Sì, poi come dici tu, è anche un allenatore risolto, quindi tu gli dici gli faccio contratto fino a fine stagione. Pioli, sono tutte e due di prospettiva per motivi diversi. Ma infatti Pioli, secondo me, a Pioli modo di lavorare, verrebbe offerto un contratto fino al 2018, se non sbaglio. Così è stato proposto. Non so se possa essere il tecnico del futuro dell'Inter nei disegni della fantomatica proprietà. Hiddink gli fa il contratto fino a fine stagione, lui felicissimo, viene traghetta. Sono d'accordo con Pierluigi. Hiddink è talmente un allenatore, insomma, che ha esperienza e capacità sul piano anche della gestione delle coppe, insomma, che può sicuramente fungere da traghettatore. Però ecco, in questa fase si vorrebbe andare sull'usato sicuro, su uno che il campionato italiano lo conosce, ed è qui l'idea di Pioli. Tra l'Anima cinese e quella italiana ce n'è una, sì, quella argentina, sì, cioè di Zanetti, che diventa a questo punto una sorta di ago della bilancia, perché in base al ruolo, al potere che sarà concesso a Zanetti, si potrà anche profilare quello che magari è già il prossimo allenatore dell'Inter, nel senso che a lungo termine Simeone, il progetto, l'idea è chiaro, Simeone, il sogno resta, è Simeone, resta quella lì, che però è legato da lunghissimo contratto con l'Atletico Madrid, problema non da poco, però sanno anche i sassi di Piazza del Duomo che il sogno è Simeone. Un ultimo stralcio delle dichiarazioni di Leonardo, proprio a proposito dei cinesi neoproprietari. Sinceramente penso che neanche i cinesi, perché ci sono altri stranieri che hanno investito, neanche i cinesi sono ancora preparati per gli investimenti che stanno facendo in squadre di calcio all'estero, e neanche l'Italia è un po' preparata per ricevere, diciamo, i cinesi, diciamo, come diciamo, proprietari di società italiane che hanno una tradizione, una storia, una forza molto molto grande. Quindi faccio questa premessa per arrivare, diciamo, a quello che è il momento, perché oggi si vive un momento abbastanza, diciamo, è quasi incomprensibile, perché è difficile capire esattamente quello che succederà o che sta succedendo. Penso che adesso, se posso dare un consiglio, è di aver calma. Sì, aver calma. Hai capito, Pardo? Non l'ha toccata pianissimo con i cinesi. Non che i sultani abbiano... No, non la tocca mai piano. Non che sultani ed emiri abbiano tutta questa dimestichezza con la gestione di società di calcio, hanno dimestichezza con altre cose, soprattutto hanno le tasche profondissime, come Leonardo sa bene. Però la mentalità cinese, un fondo di verità, o forse più di un fondo di verità, c'è nella dichiarazione di Leonardo. Sì, ma io credo che soprattutto queste nuove, in generale, poi Benignazzo penso lo potrà confermare, queste nuove nazioni che si affacciano dal punto di vista economico a comprarsi grandissimi club. Il primo è stato Abramovic, ormai sembra preistoria, perché è una storia di 15 anni fa quasi. Quindi oggi ovviamente ci sono soprattutto i cinesi, gli indiani, ci sono ovviamente tutti gli emiri, e la chiave vera sia capire se poi riesci a trovare, a circondarti di figure che possano essere attendibili dal punto di vista tecnico, che conoscano la storia dei club, che conoscano esattamente questo strano business che è il calcio, che non ha iguali nel mondo, nel senso che è il business più irrazionale che esista. Ma è un business dove basta che prendi la partita ieri fra Manchester City e Barcellona, dove una partita e magari una stagione può girare per un episodio, no? Perché improvvisamente si smette, una squadra smette di giocare e l'altra comincia a giocare. Quindi è quanto di più lontano dalla razionalità, l'aspetto aleatorio che c'è in ogni attività di impresa, e che esiste ovviamente in mille attività di impresa, qui viene decuplicato, diventa sì, qualcosa di enorme. Beh, però anche poi, i cinesi si renderanno conto di non aver comprato un'acciaieria, ma di aver comprato un club in cui ci sono varie. Nel lungo periodo poi varianti. È ovvio che le grandi società i risultati si ottengono sul lungo periodo, però la certezza che basti avere per esempio una grande società per vincere la Champions League non ce l'hai. No, la Juve negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, però poi alla fine va sempre lì a giocarsela sulla partita, sull'episodio col Barcellona a Berlino o con il Bayern nel finale dell'anno scorso. Quindi la strada è lunga, ma serve know-how italiano, serve know-how europeo, serve gente di calcio che abbia potere. Beh, guarda, da questo punto di vista io apprezzo molto quello che ha fatto la neoproprietà cinese, ancora fantomatica, poi ci dici anche di questo, Marco, del Milan, che ha scelto un plenipotenziario nella persona di Fassone e sta gestendo. Fassone ora in Cina e io penso sia stato il primo mattone corretto messo dalla nuova proprietà. Traffico. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Tutti convocati. Adesso però vorrei anche sentire il cuore pulsante del tifo nerazzurro. Come sta l'interismo e come stanno gli interisti? Enrico Bertolino, c'è poco da ridere. No, in effetti qui non è che... Buongiorno a tutti innanzitutto. Ciao. Ciao, c'è anche per Luigi, tutti presenti, convocati. Ciao. Sì, come stanno? Io parlo per me, perché poi io sono un interista abbastanza atipico. Cerco di essere ancora obiettivo, perché oggi nel calcio, se sbaglio un parere, diventata una religione, cioè peggio dell'Islam, capito? Sì, fai fatica. Però no, è la situazione è abbastanza folcloristica, cioè di per sé è come quando fai l'imitazione di razzi, cioè è l'originale a volte più divertente del... È più divertente di quello che imiti, no? Per cui è più divertente lui. Di divertente c'è poco, però c'è una bella confusione, un caos, il che a mio avviso poi crea un problema in più. Non so se è già stato detto, ma sarà tanto che crea degli alibi. Almeno io mi occupo anche di formazione, no? Nella mia attività. E quando fai, quando un'azienda, una struttura aziendale fa confusione, o c'è confusione tra le varie dirigenti e componenti, offre l'alibi perfetto al dipendente, che io considero i calciatori ancora dei dipendenti, nonostante dipendano più dai procuratori che dalle società, l'alibi per poi dire: beh, ma finché c'è questo caos noi non abbiamo chiaro gli obiettivi, mentre gli obiettivi sarebbero quelli di entrare in campo, correre e vincere. Ma poi anche il fatto di esautorare un allenatore, come è stato esautorato anche De Bor, delegittimare, è chiaro, molto Moratti di fare queste cose qua, no? Sì. E poi alla fine mi sembra che qui non c'è chiarezza, perché qualcuno nomina un allenatore e quell'altro dice: no, non è ancora chiaro che sia quello, magari un altro. Però adesso è uscito un terzo nome, poi si parlava di Cappello, siamo arrivati al folklore. Cioè. Sì. E questa cosa qua non aiuta, a mio avviso. Non aiuta in molto. Questo folklore, dato che è in arrivo la proprietà cinese, rappresentanti della proprietà cinese che spingono per una scelta anche di marketing riconoscibile all'estero, come potrebbe essere Hiddink, su cui però Pardo è pienamente d'accordo, mi pare di capire anche Belinazzo. Tu vedi più lui o Pioli? Perché mi sembra che l'alternativa sia ridotta a questi due sgonfiati. Guarda, io vedevo molto Leonardo, oggettivamente, in questo momento, se si tratta di traghettare. Ma qui, quando si parla di traghettare una squadra, perché poi tutti parlano dell'arrivo di Simeone, il quale penso che si guardi bene da venire in una situazione del genere, penso che già Gabigol si stia interrogando sul perché o per come. Cioè io vedevo più una persona che conosce l'ambiente, che conosce il campionato e che conosce, che magari può valorizzare anche questa risorsa che non è costata 2 euro, che viene da una, che è brasiliano, cioè che viene da quella cultura, e Leo è metà italiano e metà brasiliano oramai. Solo che io temo che lui stesso abbia detto: no, in quale condizioni arriviamo, quali garanzie. L'ha detto oggi, io non penso di essere il profilo adatto per l'Inter, io sono un allenatore manager, un manager allenatore. Io ho detto prima, preferisco Leonardo manager, che sarebbe stata la scelta più corretta. Fatto il Paris Saint-Germain, poteva essere quello che dicevo prima, in questo momento Fassone è nelle aziende spesso dicono: ci servono i manager, poi serve anche un leader. Certo che serve. Sì, un leader che sia supportato che l'indomani non succeda che gli dicono che guardi, quello che ha detto lui non conta più niente. Esatto. Uno come Hiddink, secondo me, ha già visto anche al Chelsea, sono gente che arriva quando poi dietro c'è un progetto in partenza, dice: guarda, portaceli fino a fine campionato e poi vediamo com'è. Solo che qui la situazione non è delle più semplici, se uno guarda anche il calendario, perché si gioca con il Southampton, che non è propriamente l'ultima squadra, e poi domenica si gioca con Crotone, che qui siamo all'emergenza spinta, dunque, capito, però questi qua riposano tutta la settimana. Il Crotone arriva dalla vittoria col Chievo e dice: ma perché non andare a San Siro, decisi a fare qualcosa di interessante? Sarà interessante il body language dei giocatori a Southampton domani sera. Enrico, ti ringrazio, ti abbraccio. L'unica cosa che dico è che se va a Pioli, chiudendo in battuta, perché un po' di umorismo ci vuole sempre, la scala del calcio verrebbe affidata a Pioli, diventerebbe la scala Pioli. Per essere originale, la scala a Pioli, certamente. Senti, buona giornata a voi. Ciao Enrico, grazie. Dunque, mi sembra grosso modo un plebiscito per Hiddink, il profilo più interessante, più curioso. Sentiamo anche che cosa dice questo Joram Chan, perché Kia, questa è Kia, perché è un'altra figura centrale, c'è anche l'anima, con 1000 passaporti. C'è Kia, è uno dei più grandi agenti, è fuggito con la famiglia dall'Iran. Comunista, ha un doppio passaporto, uno canadese e un inglese, con 2 date di nascita, peraltro Sinar, grande, come dire, esperto, appassionato di calcio, ecco, e ha avuto tutta un'esperienza nel settore finanziario, che poi ha applicato al calcio, al Corinthians. Ora sarebbe un po' lunga raccontare la storia che parte da Tevez e Mascherano, portate al West Ham, esplodere il caso del TPO. Continua a essere comunque uno dei procuratori con il maggior fiuto, anche se è sempre più riduttivo parlare di procuratori, e lui da un paio d'anni, da 2 o 3 anni, insieme all'altro grande, cioè Jorge Mendes e la sua gestifute, stanno traghettando nel calcio moderno la Cina a suon di affari milionari. Ed è lui che è diventato attraverso gli affari che ha permesso di concludere allo Jiangsu di Suning con tanti giocatori brasiliani portati in Cina, è diventato il referente anche per il mercato italiano. L'abbiamo visto in prima fila nelle principali occasioni in cui Suning si è presentato quindi come proprietario. Sarà una voce ascoltata anche nella De Boer è un suo assistito. Non so se Hiddink, non credo si sia un caso, frattempo. Non so se Hiddink si sia abbia firmato un'altra procura. Dai che lo conosci Pierluigi, tu che conosci tutti, che andiamo a fare due chiacchiere con lui Hiddink, magari. Hiddink lo conosco. No, ma i procuratori questo... Però questa idea del doppio passaporto non è male, pensavo di farmi con due date di nascita diverse. 84, no, tanto voglio dire, la mente dicono si ricorda un po' male, no? Però non sarebbe male questa cosa della doppia data di nascita. Insomma, dai, nel calcio ce ne sono state tante, no? Cioè, evochiamo il grande Riberto. Sì. Ne abbiamo viste un po' di storia di passaporti. Pier, grazie, ti lascio rientrare da Manchester, ci sentiamo domani. Ci vediamo domani, ciao. Pier. Io ringrazio anche Marco Bellinazzo, insomma, abbiamo lasciato in sospeso alcuni argomenti. Rimani altri 5 minuti? Resto con voi. Vedete, qua inventiamo, improvvisiamo, aspettiamo anche voi, 800-24-00-24, numero verde. Dobbiamo parlare ancora di Milan e dobbiamo parlare anche un po' di grano che gira in centro. I premi sono molto interessanti. Molto, molto interessanti. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali. Verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Namo, let's go! Tutti convocati. Mi sono tenuto per qualche minuto ancora Marco Bellinazzo, che torno a ringraziare dalle pagine Sport and Business del Sole 24 Ore. Sono diversi ascoltatori che mi accusano, soprattutto via SM, scrivendo 349-238-6666 di una mia avversione nei confronti dell'Inter, di una campagna stampa nei confronti dell'Inter, addirittura andrà da Roma sudditanza contro l'Inter, non vedo perché. Ogni tanto mi scappa da sorridere quando parlo dell'Inter, ma la trovo una situazione paradossale, ma tutto lo sport mi fa sorridere nei suoi risvolti. Non ce l'ho con l'Inter, ma pensatela come vi pare, non me ne importa nulla, non ho niente contro l'Inter, certe volte l'Inter mi fa, ma anche altre squadre, non che... Diciamo che ci sono tante squadre italiane che tendono a farsi male da sole. Che tendono a far sorridere, e io lo faccio con grande piacere, devo dire. Marco, partiamo da invece andiamo sul fronte Milan, che pure mi fa sorridere, però quantomeno dico da quella parte non si sa chi sono ancora gli investitori, anche se oggi leggo sul Corriere della Sera Milan meno investitori più coinvolti, sono 4, questo è il pezzo del Corriere della Sera, solo il titolo. Sì, c'è ancora Nebbia, intanto Fassone è in Cina e questo closing s'avrebbe da fare, il matrimonio s'avrebbe da fare. Sì, diciamo che Fassone sta facendo questo giro per tirare un po' le fila e capire esattamente poi quali saranno i soggetti che rispetto alla prima lista di cui nomi ormai sono noti, quali saranno poi effettivamente coloro che entreranno nel deal. C'è da dire che alcuni si sono sfilati dalla parte diciamo azionaria, ma potrebbero comunque rientrare come sponsor, quindi hanno confermato il grande interesse per il mondo Milan e per quello che il mondo Milan può dire in termini di business, soprattutto in Asia, e quindi io credo insomma che a breve avremo finalmente insomma. Cioè Fassone là a costruire il Lego rossonero. Sì, è stato anche fotografato, abbiamo visto insomma la foto in giro in un'azienda di ingegneria davanti a uno stadio, a plastico di uno stadio, si sono subito spese insomma le azioni su quello che potrebbe essere il futuro anche infrastrutturale del Milan, perché no? Io credo che insomma però la cosa fondamentale sarà arrivare a, una, a un passaggio della, della proprietà. Credo che ecco, rispetto a Suning, che ha una proprietà molto più forte, ma ha avuto evidentemente in questa fase di transizione un po' più di un approccio più morbido dal punto di vista del management, gli altri che sono un po' più confusi nella loro definizione no, azionaria, però hanno avuto le idee chiare sul fatto che la dirigenza doveva esserci ben definita, con ruoli chiari, con poteri precisi, e quindi diciamo in qualche modo si parte con un passo avanti, insomma con un qualche vantaggio in più. Non è detto insomma che poi tra qualche anno insomma ci ritroveremo a vedere anche Milan se aspettiamoci dei movimenti societari all'interno, già Gandini è andato via, aspettiamoci di vederci, di vedere, di assistere a movimenti societari all'interno del, del Milan, di un rinnovamento anche societario. E però non... ecco, da questo punto di vista, Carlo, mi riferisco di... a Galliani. Sì, mi sento di dire, insomma, Galliani credo che insomma, sia mai diretto verso, verso altri lidi, verso la presidenza della Lega, ma appunto questi cambiamenti saranno complicati, saranno altre fasi difficili per entrambi i club, però ecco, queste proprietà, almeno dal punto di vista della, della forza economica, fanno stare tranquilli. Poi sappiamo che la storia del calcio non è fatta poi direttamente o immediatamente con i fatturati, aggiungo io per fortuna, però è evidente che bisogna avere certi fatturati per poter tornare a competere stabilmente a livello europeo. Certamente. Un'ultima cosa, Marco, e poi ti, ti parliamo congedo. D'Europa. Parliamo d'Europa, il tuo Napoli ieri sera è rimasto in corsa, però ho sentito prima sia Giordano che Pardo non così ottimisti sul passaggio del turno, non è ancora fatta, pesa con la sconfitta interna europeista. E non è che ballino pochi quattrini. Assolutamente no, perché ieri, proprio ieri la UEFA ha reso noto quelli che sono stati i premi distribuiti a tutti i club che hanno partecipato alla Champions e all'Europa League nella scorsa stagione. Sulla parte italiana diciamo che ci sono cifre molto molto interessanti, perché la Juve ha incassato tra market pool e premi 76 milioni e la Roma 68 milioni e mezzo. Mica paglia. Consideriamo che il Manchester City, che è la squadra che ha ottenuto di più, è arrivata a 83 milioni, e questo ci dà il senso di quanto è importante per le italiane fare la Champions. Lo sarà ancora di più tra qualche anno, quando scatterà, diciamo, la, tra due anni, tra quando scatterà la, la riforma, con quattro squadre che potranno partecipare ai gironi, a patto ovviamente che cresca il montepremi, perché questi soldi, questi grandi bottini sono possibili solo perché manca la terza squadra. Chiaro, sì, manca la terza squadra, se li dividono in due. Quindi possiamo, possiamo dire che per il Napoli queste due partite valgono una cinquantina di milioni. Beh, con Dinamo diciamo Kiev in arrivare, casa arrivare agli ottavi potrebbe dare, diciamo, a patto che la Juve magari non superi gli ottavi come l'altra volta, potrebbe arrivare a 70 milioni, ma ci auguriamo che la Juve faccia molta più strada, e comunque parliamo di una 55-60 milioni. Appunto. Insomma non aggiungiamo altro, sono soldi con cui ti puoi comprare, diciamo, soldi interessanti, un diciamo un buon giocatore o forse un paio. Grazie Marco, grazie, alla presto. Prossima. Lucio Treviso, buongiorno. Poi Andrea da Bologna, dica Lucio. Sì, buongiorno. Di Castelfranco per la precisione. Sì. Faccio una premessa, sono juventino, però in qualità di suo concittadino mi sarebbe piaciuto vedere Francesco Guidolin alle prese con la panchina nerazzurra. Sì, era volevo stato fatto anche se, il nome di Guidolin. Sì. Se questo nome è del tutto scomparso, anche perché per fare una battuta e rimanere sulla vocazione allo scherzo, sarebbe stato bello vedere sulla Gazzetta titolato Guido Linter. E invece probabilmente ci dovremmo accontentare di Pio Linter. Di Pio Linter oppure di Iddic Inter, che è un po' più complesso. Diciamo, diciamo che ormai la, la scelta è, mi sembra ridotta a questi due candidati, tra cui inserirei con minori chance Villas-Boas, che comunque l'Inter e l'ambiente interista l'ha conosciuto come, come vice di Mourinho. Però direi che fuori da questi tre nomi non si andrà. Nonostante altre illazioni che sono state fatte tra i nomi più strani, compreso Marcelino, ex Villarreal, compreso il Tata Martino, insomma praticamente tutti erano in lizza per la panchina dell'Inter, forse anche Pardo. Però mi sembra che ormai la scelta sia tra Iddink e Pioli, e vedremo quale sarà, quale, quale sarà la volontà che prevale, se quella dell'anima italiana, quindi Pioli, o quella dell'anima cinese, per semplificare, e quindi Hiddink. Andrea, Bologna. Ma buongiorno, premesso che nessuno ce l'ha con l'Inter. Io neanche, mi volevo lasciare lì perché se volete pensare che io ce l'abbia con l'Inter, liberissimi di farlo, non mi importa. Ma no, ma è l'Inter che automaticamente si mette alla berlina con una gestione di questo tipo, dove è riuscita a creare più caos di quello che già se n'era. Ora, io sono d'accordo con lei, per me Fassone è stata la prima pietra importante che la dirigenza del Milan ha messo su questa società del Milan. Ora, io non riesco a capire come persone che siano così importanti a livello manageriale, imprenditoriale, perché sono persone, gente che maneggia centinaia di milioni di euro, non riesco a capire che per questo cartellone pubblicitario chiamato Inter, che servirà a loro per aprire poi altre strade, altri mercati, esattamente, non riescono a capire che nelle parole semplicissime di Leonardo c'è tutto il segreto dell'Inter. Cioè, questo è chiaro, parole, non a caso io ripeto fin da quest'estate che Leonardo è il prototipo, Fassone è l'esemplificazione della prima pietra che io avrei messo acquisendo un club italiano di una certa importanza. Non è stato fatto, sono state fatte scelte diverse e da qui è nata una situazione che sinceramente è grottesca. Ora perdonatemi, datemi pure dell'antinterista, ripeto, tanto ognuno è libero di tenersi il suo legittimo pensiero. Sandro Sabatini, che pure conosce molto bene l'ambiente Inter, ciao Sandro, ed è il signore delle notti di Champions. Ciao Sandro. Ma io poi dico che alla fine bastava tenere Mancini, perché questa situazione c'era anche l'anno scorso, solo che con Mancini non era deflagrata. Lo so, però c'è stata la rottura tra Mancini e Toir, che è praticamente il presidente uscente. È il presidente uscente, di fatto è quello che evidentemente ancora ha alcune deleghe che non conosciamo bene, però comunque ce l'ha le deleghe, perché altrimenti non si sarebbe permesso sia di scegliere De Boer, sia di lasciare le cose che andassero così, in questo modo abbastanza senza senso, perché come andare in giro con una macchina guidando a caso, senza navigatore, ecco, questo sembra l'Inter. Adesso continua a girare su se stessa, ma senza arrivare mai a nessun traguardo, a nulla di buono. Però in realtà ci sono tante incongruenze. Io non credo che con Leonardo le cose si sarebbero messe a posto, perché Leonardo comunque come allenatore ha fatto il suo. E Leonardo come dirigente, Sandro? Un conto, sai, quando fai il dirigente nel Milan di Berlusconi, cioè negli anni d'oro del Milan di Berlusconi, sei praticamente destinato soltanto a scegliere i giovani talenti insieme a Braida del Brasile. Un conto quando devi fare il dirigente a tutto tondo, l'ha fatto per un anno al Paris Saint-Germain, per un motivo o per l'altro è finita la sua avventura da dirigente al Paris Saint-Germain. Con questo io non sto dicendo che disistimo Leonardo, tutt'altro, però sto dicendo che qui si rischia di mitizzare delle figure Ma io comunque ripeto, ho fatto Leonardo a nome di Leonardo a titolo esemplificativo, come l'Inter ha scelto Fassone. A me Leonardo è uno che sicuramente può dare affidamento, è un uomo di calcio, spettore di cultura, a fascino, sicuramente a tutto. Però fondamentalmente il problema dell'Inter è che è un'enorme torre di Babele, espressione che ormai non va più di moda e non si usa più, ma rende benissimo l'idea, in cui devono convivere etnie e lingue diverse. E allora chi fa radio, tra l'altro, sa benissimo quanto le sfumature, il tono di una parola, il significato di una parola. Io credo che l'Inter non possa uscire da questa situazione se non con una... Cioè, ci mancava solo un brasiliano, capito, con Leonardo. Ecco la battuta che mi veniva. Ci vuole una persona italiana profondamente, che conosca profondamente sia l'economia del calcio, sia anche il sistema, quello che è irrazionale nel calcio italiano. Il sistema, perché è un ambiente particolare all'interno di un mondo particolare come quello calcistico. E l'Italia, in questo senso, non è una penisola, ma un'isola in cui ci sono regole non scritte che, se non sei di qui, fai fatica a conoscere. Leonardo le conosce perfettamente, perché perché è qui da anni, però questo forse no, sfugge un pochino alla proprietà cinese. Senti Sandro, parlando di Champions, City travolge il Barcellona, raccontato da Pardo dopo 30 minuti di apnea, una partita in cui Guardiola si è preso via la sua rivincita, nonostante quell'ultimo gol fosse irregolare. Se l'è presa la rivincita dopo un tempo in cui è stato in apnea come Pardo, perché sì, un tempo per 40 minuti il Barcellona, non dico che ha dominato, ma quasi. E poi dopo è venuto fuori la bravura dell'allenatore e la forza anche della squadra, perché tra Manchester City e Barcellona non c'erano i 4 gol dell'andata. No, io credo che il Manchester City sia una squadra forte, allenata da un allenatore forte, fortissimo, e credo che la partita che si è vista ieri sera sarebbe un peccato se non la rivedessimo almeno in semifinale. Sono d'accordo. Perché anche a livello televisivo, proprio di spettacolo, di piacere del calcio, insomma, perché veramente è stato veramente bello vedere Manchester City Barcellona ieri sera. Ti riconcilia, no? Ti fa dimenticare un sacco di cose. No, è stato uno splendido spettacolo sportivo, sì, punto, al di là dei, sì, poi dei risvolti. In questa stagione ci sono gironi un po' così, lasciamo stare l'allargamento eccetera eccetera, però abbiamo Bayern, Atletico, Paris Saint Germain e Arsenal già qualificate, la Juve che potrebbe qualificarsi stasera insieme all'Leicester di Ranieri, al Real, rischia di essere tutto deciso o quasi prima degli ultimi due turni. Ma in realtà poi la decisione si fa sul primo posto, sul secondo posto. Che è fondamentale, sì. Che è fondamentale anche se in alcuni gironi, tipo l'esempio più eclatante ed evidente è quello di Barcellona e Manchester City, per le avversarie sono squadre che praticamente si equivalgono. In altri gironi la differenza è più netta, un pochino più netta. Però, sì, magari effettivamente in certi se non sbaglio c'è un Arsenal Paris Saint Germain al prossimo turno che servirà per il primo posto. Però è chiaro, parliamoci, diciamolo con schiettezza, è chiaro che questa formula con tante squadre che privilegia i piccoli paesi a scapito anche di paesi storicamente più importanti crea dei gironi con pericoli di 0 punti, ecco, sì. O un punto. In cui la vita se la possono complicare solo le squadre più forti, come sta provando a fare il Napoli. C'è un Paris Saint-Germain che ieri ha vinto ancora, ma sembra ci siano già delle crepe rispetto con la guida tecnica dei pluricampioni di Francia e anche con Verratti, che prima se ne parlava. Sarebbe il giocatore che ad esempio Antonio Di Gennaro regalerebbe alla Juventus per cancellare quell'asterisco a centrocampo alla voce qualità. Ma sai, alla voce qualità credo che stasera ci sia una casella aperta che Allegri proverà a metterci una croce più o meno definitiva, provando a far giocare Pjanic fantasista, sì, perché stasera la Juve gioca con 4 difensori, tre centrocampisti con Marchisio che è fondamentale più Pjanic a ridosso delle punte. È una soluzione, non so se sia la soluzione migliore per questo famoso gioco della Juve che non si vede, che non decolla, che provoca tante critiche, però è comunque una cosa di cui invece sono sicuro che Allegri aveva in mente da tanto tempo, che riesce a realizzare solo quando con il ritorno anche di perché sta in fondo sta cercando col lanternino il Pjanic perduto, cioè quello che l'anno scorso incantava nella Roma e che veniva accostato a, io mi ricordo, paragoni con Rivera, ma non solo, insomma. Sandro, per chiudere, voi avete, sì, trasmettete anche un campionato francese che, sì, non è esattamente come quello italiano in cui il Paris Saint-Germain ha già preso il largo e si avvia a vincere con diverse imbarcazioni di distanza, come direbbe Giampiero Galeazzi. Ma in questo c'è lo zampino di Mario Balotelli e di questo Nizza rosso-nero che comanda la classifica. La resurrezione del Balo? Ma guarda, io adesso faccio a scapito del prodotto della casa, dico che non so se state vedendo che Ibrahimovic l'anno scorso segnava 40 gol, negli anni scorsi segnava 40 gol in Francia. Adesso in Premier League è fermo da 6-7 partite che non riesce più a segnare. Cioè, questo perché lo dico? Perché la crisi in campionato del Paris Saint-Germain è clamorosa. Se fosse in Italia sarebbe da prima pagina, sarebbe l'Inter. Sì, in prima pagina come l'Inter. Sì. perché il livello non è elevatissimo. Detto questo, quello che sta facendo Balotelli mi sembra un piccolo passo per la storia del calcio, ma un grande balzo per la sua storia personale, perché sì, se riprende a giocare, a correre, a divertirsi, a sudare, insomma, l'Italia ritrova un... Ma che in fondo è quello che gli è mancato nelle ultime nelle ultime N stagioni dopo i mondiali. Da dopo i mondiali abbiamo perso Balotelli, lui ha perso la voglia di fare il calciatore, di giocare, di mettersi alla prova, eccetera. Ora la sta ritrovando un po' ai confini dell'impero, perché quelli sono, sono i confini del meravigliosi confini dell'impero. Però è lì che stiamo forse ritrovando un giocatore di calcio che è, a mio parere, insieme a Verratti, il più talentuoso, e sto parlando di talento puro, non di altre, di altre cose, insieme a Verratti. Sandro, grazie. Buon lavoro. Grazie, è stato un piacere. Ciao. Piacere mio, Sandro Sabatini. Oh, mio amico Mario Boni. Ciao Carletto. Allora, Hiddink o Hiddink o Pioli, quanto sei incazzato sulla situazione nell'azzurra? Eh beh, da 1 a 10. Da 1 a 10 siamo a 9 e il 10 arriverà con le doppia partita Southampton e Fatone. Lì la vedi male? Lì la vedo malissimo, anche perché quando la società molla non c'è... come dire, non si sente il potere forte, è facile che i giocatori si auto eliminino, nel senso che trovino delle scuse e che in campo non riescono a dare il 100%, quindi sono molto preoccupato per le prossime due partite. Sì, ma se c'era De Boer era la stessa cosa, non mi sembra se fosse molto amato all'interno di quel club, mi sembra sia stato un colossale errore e penso non ci siano dubbi sulla forse sono rimasti solo a Pardo sull'idea di sollevarlo dall'incarico. Sì, purtroppo la colpa, io ripeto, viene dalla gestione Mancini. La colpa di Mancini doveva essere deciso prima il suo esonero. De Boer è stata una scelta di Toir, e questo, ecco, voglio sottolineare quello che è evidente, cioè la mancanza di fiducia da parte della proprietà e da parte della presidenza verso la dirigenza italiana, cioè in questo caso Gardini e Ausilio e anche vicepresidente Zanetti. Certo, ma di fatto non contano nulla. Bravo, esatto, il punto è questo, di fatto non hanno voce in capitolo. Esatto. Secco, Hiddink o Pioli? Ma forse Hiddink. Hiddink anche tu. È un plebiscito, sì, signore. Oggi è un plebiscito, poi domani... Ma sai, Carletto, se si tratta di terminare la stagione, è meglio un allenatore che è abituato a terminare la stagione. Sì, sì, che lo fa, che fa ormai il traghettatore di mestiere. Ha grande esperienza, il passaporto in questo caso non conta perché ha allenato in tutto il mondo, dunque è una scelta che può essere assolutamente convincente. Mario, invece, dimmi una parola su questa Eurolega che a me sta piacendo tantissimo. Una spremuta di partite, di sangue, di fatica, di eccellenti partite. Domani vengono a trovare Milano due vecchi amici come Trinchieri e Melli che conducono il Bamberg. Guarda, è appassionante, molto bella, vincente, qualità del gioco alta, e il fatto non so quanto riescano a durare i giocatori, perché le numerose partite sono logoranti, un po' stile NBA, però con l'impegno triplo dell'NBA. Sì, però c'è anche da dire che sono tutte squadre molto lunghe e talmente competitive, Milano compresa, che possono fare ampio turnover in campionato. Certo. Assolutamente, Milano insegna 16 giocatori, 15 giocatori, quindi... È stata costruita per quello. Grazie Mario, ti abbraccio a voi, forte. Ciao Carletto. Ciao Mario Boni. E così chiudiamo questo programma. Domani riapriamo i battenti, ovviamente alle 14. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Feronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Non sono anti-interista, ogni tanto mi scappa da ridere, perdonatemi. Have a nice day.